Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sara, svegliati, è primavera. L'aspettiamo tutto l'anno e quest'anno, come una vera star, si è fatta attendere. Parlo della primavera, ma... Care amiche, cari amici, sembra che si sia decisa, è arrivata, l'aria diventa frizzantina, le giornate si allungano, è tempo di dire definitivamente addio all'inverno. Siete pronti? Ma se vuole le posso toccare personalmente? Il trucco non serve a niente, non c'è niente che serva più. Rugosa, rugosa, piccola attrice, fa che non si veda la cicatrice. Abbiamo voglia di primavera, eppure la pelle sembra che faccia fatica a risvegliarsi. Insomma, abbiamo il cuore in primavera e la pelle ancora in inverno, e non è solo un'impressione. Allora, ci facciamo aiutare oggi dal professor Antonino Di Pietro, che è in linea con noi ed è direttore del servizio di dermatologia dell'ospedale di Inzago. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lei sente la primavera, professore? Ma caspita, certo, che la sento. Poi la canzone di Venditti risveglia i ricordi delle primavere passate. Quindi. Professore, però in questa stagione noi ci guardiamo e siamo un po' grigetti, flaccidini, diciamo la verità. Non è che diamo il meglio di noi, la pelle non aiuta. Sembra ancora proprio in inverno, in letargo. Certo, ma si potrebbero fare anche dei test per capire ancora quanto la pelle è in letargo, quali sono i retaggi di quest'inverno che ci stiamo lasciando ed eventualmente anche cosa fare per prepararci alla prossima primavera. Magnifico. Allora, noi siamo pronti. Che cosa possiamo fare oltre che guardarci allo specchio? Ma ci sono dei test abbastanza semplici, anche simpatici. Uno è quello di prendere un pezzo di scotch, metterlo sulla pelle, che può essere sul braccio o sulla guancia, scegliamo noi dove. Poi vi dirò che cosa succede quando staccheremo questo scotch. Sì. L'altro invece è di prendere un bicchiere di vetro con il fondo trasparente, chiaramente bianco, non colorato, e appoggiarlo sulla pelle. In questo caso potremmo utilizzare la pelle delle guance, che è più evocativo di cose che potremmo vedere. E poi l'altro test è il test del risveglio, sì. Cioè appuntarci se nelle ultime settimane ci svegliamo con gli occhi gonfi o con le pieghe del cuscino sul volto. Ci guardiamo allo specchio appena svegli, vediamo gli occhi un po' gonfi oppure queste pieghe sulle guance, che sono quelle che si creano quando dormiamo con la faccia piegata sul cuscino, e anche lì è un buon test per capire altre cose. Ecco, quindi cominciamo a prendere nota di questi tre test. Lo poi scotch, il perché. Scotch, bicchiere e risveglio mattutino. Sì, Se abbiamo gli occhi gonfi e ci alziamo stropicciati. 800 24 00 24, se volete intervenire, anzi vi consiglio di intervenire già sin d'ora. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Oggi l'hashtag è pelle a primavera. Ultimo giorno, Silvano torna lunedì. Sì, peccato, cominciamo a piacermi qui, siete tutti così simpatici. Oh, ciao Luca. Ciao. Cioè, quasi tutti. Vai, bravo. Perché lo tratti così, quel poveraccio? Dici sempre che bisogna essere gentili con gli interminabili. Interminabili. Perché c'ho una roba alle mani, guarda, mi sto grattando, tra un po' si vedono le ossa. Ma sai che anche stamattina c'è tutto un prurito qua? Io non ce la faccio più. Più mi lavo le mani, più mi viene da grattare. Pippo, vai in farmacia e fatti dare qualcosa per estirpare il male alla radice. Professore, a dire la verità, l'inverno ci spegne, la primavera però rischia di accenderci troppo, la pelle diventa rossa, prude, si desquama. Sì, perché con la primavera si possono risvegliare le dermatiti, le allergie, che non prendono solamente le vie respiratorie, ma anche la nostra pelle. Gli eczemi o dermatiti in questa stagione cominciano a vedersi con più facilità. Professore, le dermatiti, sì, sono una grande famiglia, sono diverse tra di loro, ma hanno dei tratti in comune. Primo, possiamo dirle che non sono contagiose. Esatto, non sono contagiose perché sono delle forme allergiche, è la nostra pelle che reagisce in maniera esagerata verso qualcosa con cui viene a contatto o qualcosa che invece viene dall'interno, quindi è un'esagerata risposta del nostro sistema immunitario, ma non è per nulla contagioso. Ecco. Ma quali altre caratteristiche le accomunano? Le accomuna anche la manifestazione, cioè quello che noi vediamo sulla pelle e quindi possiamo dire questa è una dermatite piuttosto che un'altra patologia. E difatti le dermatiti si manifestano inizialmente con un arrossamento, una sensazione di prurito, di pizzicore, e poi cominciano ad apparire delle vescicole, bollicine molto piccole che man mano si espandono. In seguito al prurito queste piccole vescicole tendono a rompersi e quindi si creano delle desquamazioni sulla pelle. Certo. Se poi ci si gratta disperatamente, è la fine. Molto frequente, alla fine, perché poi compaiono anche dei graffi o delle croste. Ma questo dovrebbe essere evitato perché bisogna intervenire prima che si arrivi a questi estremi. Allora, intanto che voi, se volete, fate il test suggerito dal professor Di Pietro per capire quanto e come l'inverno ha lasciato il segno sulla nostra pelle. Ricordate lo scotch, il bicchiere e il risveglio mattutino. Sicuramente stamattina siete andati davanti allo specchio. Che cosa avete notato? Vi invito anche a ispezionare la vostra pelle, a sentire la vostra pelle. Magari avete dei rossori, la pelle si desquama, si irrita, e affrontiamo il grande capitolo delle dermatiti che si risvegliano, come ha sottolineato il professor Di Pietro, proprio in primavera. 800 24 00 24. Ci facciamo ancora aiutare dal professor Di Pietro per individuare magari quali sono i segnali che dobbiamo tenere sotto controllo. Direi, professore, che possiamo usare tre parole: il dove, il come e il quando. Sì, dove avvertite queste sensazioni di secchezza, rossore, prurito, vescicole, desquamazioni? Professore, le ho dette tutte o ne ha saltate qualcuna? No, sono soprattutto questi i segnali e i sintomi, no, che ci appaiono e che sentiamo sulla nostra pelle quando ne siamo affetti. Dove le zone del corpo più colpite sono in primis il volto, ma anche gli arti, le gambe, le braccia che cominciano a manifestare prurito. Come sì. L'abbiamo anticipato, detto, ma lo ricordiamo, anticipato, e quindi l'arrossamento, una sensazione di pizzicore, di prurito. Sulle zone arrossate compaiono queste piccole vescicole che poi man mano tendono ad allargarsi, il prurito le fa desquamare perché grattandoci chiaramente certo. Le rompiamo e possono formarsi in casi estremi anche delle croste, perché un grattamento forsennato chiaramente causa delle graffiature. Professore, fa differenza se usando l'acqua, quindi bagnando la parte arrossata, pruriginosa, desquamato, secca, avvertiamo un fastidio maggiore? Oppure sì. Cioè l'acqua può funzionare come una sorta di test? Dunque, l'acqua serve a dimostrare la profondità dei graffi, delle lesioni o delle vescicole, perché più sono marcate queste lesioni, più l'acqua penetrando brucia, ma soprattutto bisogna stare molto attenti ad asciugare bene la parte, perché certo. Se resta umida, innanzitutto si può sovrainfettare, perché la pelle umida con più facilità può far crescere dei batteri che ci sono sulla nostra pelle e quindi poi si forma del pus e quindi si complica la situazione. L'acqua di per sé non è così pericolosa, ma bisogna asciugare bene la parte. Poi ci sono determinate acque in certe zone d'Italia che per la loro ricchezza di calcio, di altri sali o di nickel, purtroppo ci sono delle acque che contengono una certa quantità di nickel che è del tutto ammessa, però anche quelle piccole quantità su una pelle già irritata possono peggiorare una dermatite che c'è in corso. Allora, e poi arriviamo, professore, al quando, dove, come e quando? Beh, quando, anche in questo caso, sono delle forme legate anche alla stagione, in genere in estate le dermatiti tendono a migliorare, sì. Mentre invece adesso con la primavera un po' si risvegliano. Non dimentichiamo che ci sono anche delle dermatiti classiche della stagione in cui compaiono i fiori, l'erba è più verde, c'è la classica dermatite dei prati. Da Camporella. Esatto, da Camporella, che è estremamente significativa, anche no, simpatica. Me la spieghi bene questa dermatite, lei ha detto dei prati, io ho detto Camporella, ma sì. Insomma, perché adesso spieghiamo poi ci saranno perché, anche allora. Picnic. Esatto, perché quando ci si sdraia sull'erba, magari con la pelle nuda perché c'è la magliettina o senza maglietta, addirittura con i pantaloncini corti, delle sostanze che sono presenti nell'erba, nei fili d'erba, che vengono definite fotocumarine, ecco, queste sostanze si adagiano, bagnano la nostra pelle, interagiscono con il sole, diventando fortemente irritanti. Sì. Per cui il giorno dopo, quando siamo a casa e ci facciamo la doccia, il mattino dopo vediamo sulla nostra pelle dei colpi di frusta, sentiamo prurito, e sono i classici segni della ricordiamoci, dermatite. Ecco, del prato. Esatto, del prato. Allora si va dal dermatologo preoccupatissimo, e il dermatologo dice: ah, sei stato su un prato, ti sei rotolato su un prato. Poi se sono due fidanzati, si sono rotolati sui prati, meglio, è tutta salute, meglio, no? È tutta salute. Donatella dalla provincia di Cremona, buongiorno, e poi Giovanni buongiorno. Da Bergamo. Donatella, benvenuta. Buongiorno, tanti complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io sono fisioterapista e idrochinesiologa, ormai da 6 anni lavoro esclusivamente in acqua, quindi la media del mio lavoro in acqua è di 4 ore, sì. Acqua piscina, acqua calda, 34 gradi con cloro ovviamente. Io mi idrato molto, però volevo sapere se ci sono poi, possono esserci dei problemi nel futuro. Bevo molta acqua, mangio frutta e verdura, però insomma fa tutte le cose per bene. Ore. Allora, Donatella è in ammollo per lavoro, fa tra l'altro un lavoro molto utile, bellissimo, proprio quello della riabilitazione in acqua, professor Di Pietro. Ci sono persone che però si certo. immergono non solo per lavoro, ma per piacere. Penso alle persone, ad esempio, che invece che andare in palestra o andare a correre, frequentano regolarmente una piscina che quindi è clorata. Certo. Pelle cloro, pelle ammollo. Sì, beh, anche qui dipende molto dalla sensibilità individuale, no? Verso tutte le sostanze che ci circondano. Ci sono persone che non tollerano molto bene il contatto con il cloro e ogni volta che vanno in piscina si immergono, poi hanno prurito, possono avere fenomeni di orticaria o vere e proprie dermatiti legate al cloro. Ecco, qui è un fatto individuale e purtroppo quando si verifica questo bisogna non frequentare assiduamente le piscine. Mentre a Donatella, Donatella sicuramente ha una pelle adatta, no, per far quello che sta facendo, e altrimenti si sarebbe lamentati di avere qualche problema. Io spero che non ne abbia, perché è un bellissimo mestiere, passare delle ore in acqua tutto il giorno è una cosa che affascina molto anche a me. Io sono un dermatologo acquatico e quindi professore, insomma dobbiamo invitare i nostri ascoltatori comunque che fanno stanno spesso in acqua, vuoi per nuotare o per lavoro, di idratare la pelle con sì. alcune sostanze in particolare, ecco, sì, perché, a proposito di primavera nimpapero. Stare molto tempo nell'acqua, soprattutto poi se nell'acqua ci sono questi disinfettanti, c'è il cloro, sì. Altera i legami che ci sono tra le cellule superficiali della pelle. È un po' come un pavimento dove viene rimosso lo stucco che c'è tra una mattonella e l'altra, sì. per cui la superficie della pelle comincia ad apparire un po' screpolata, un po' secca, un po' arida, no? In questo caso vanno molto bene le creme ricche di ceramidi o di fosfolipidi. Sono delle sostanze che cementano le cellule tra di loro, le mantengono più compatte e in questo modo la pelle si disidrata meno. Per cui al termine di una giornata passata in piscina sicuramente queste creme possono essere di grande aiuto. E andiamo a Giovanni che ci chiama da Bergamo. Benvenuto e buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho un problema al cuoio capelluto. Mi sembrava forfora, ad esempio, a me all'inizio. Ho provato con degli antiforfora, andava ancora peggio. E poi in questo periodo mi dà prurito e niente, come se la pelle tirasse. Quindi volevo capire se posso usare qualcosa. qualche crema, qualcosa, qualche prodotto particolare. E soprattutto come capire se si tratta di forfora, professor Di Pietro? Certo, ma questo è un bel grattacapo, caso, esatto, tra l'altro, perché non tutte le squamette che vediamo sul cuoio cappelluto, che ahimè scendono sui nostri vestiti, sono è forfora. Sì, beh, allora innanzitutto la forfora sta a indicare che c'è una desquamazione del cuoio capelluto. La forfora può essere grassa o secca e quindi di vari tipi, però sta sempre a indicare che c'è uno stato di sofferenza del cuoio capelluto, per cui c'è una intensa desquamazione. La causa di questa sofferenza poi può essere molteplice, sicuramente quella più frequente, io credo che sia anche quella del nostro ascoltatore, sì, è la dermatite seborroica. La dermatite seborroica è frequentissima, colpisce il 6-7% della popolazione, per cui si parla di numeri altissimi, e si manifesta con un po' di prurito, con una desquamazione che viene comunemente definita forfora, che può durare anche qualche mese, se non qualche anno, con alti e bassi. In genere adesso in primavera c'è una recrudescenza, quindi c'è un aumento della dermatite. Non solo, la dermatite seborroica può colpire non solo il cuoio capelluto, ma anche i lati del naso. Molti ascoltatori in questo momento si stanno ritrovando in quello che sto dicendo, perché è comunissimo vedere ai lati del naso un arrossamento e una desquamazione, così come anche tra le sopracciglia, che è un'altra zona caratteristica. Ecco, allora quando c'è la forfora sul cuoio capelluto, cioè un arrossamento ai lati del naso e un po' di desquamazione, una specie di forfora arrossamento tra le sopracciglia, quella è dermatite seborroica nel 90% dei casi. Per fortuna adesso c'è un nuovo composto di cui possiamo parlare nel corso. Sì, perché un composto non è un nome commerciale, certo, ma è il nome del composto attivo, si chiama aluchina, aluchina. Sì. È naturale, è un vanto della ricerca italiana, perché è stato trovato da ricercatori italiani, ed è molto efficace, perché riesce ad eliminare davvero in pochi giorni questo fastidio. La luchina la si trova anche in shampoo, la si trova in crema, funziona decisamente bene, e tra l'altro è una sostanza naturale, perché deriva dall'allume. L'allume è quella pietra che i nostri nonni usavano come dopobarba, quindi è un minerale vulcanico naturale che, unito alla vitamina E, si è visto, e ha un derivato della liquirizia, pensi alla liquirizia, che è un potente antinfiammatorio naturale, è riuscito ad aver ragione di questa forma molto comune, che prima si curava col cortisone. Quindi adesso... E quindi ricordiamo questa sostanza preziosa, naturale, che può in qualche modo sostituire il cortisone. Decisamente, ormai in questi ultimi mesi ha decisamente sostituito le creme a cortisone, con dei risultati che sono davvero eccellenti, senza gli effetti collaterali del cortisone che ben conosciamo. Quindi voi guardatevi allo specchio. Si chiama aluchina. Aluchina. Ne parleremo anche nel corso della trasmissione. Intanto voi guardatevi allo specchio. Se volete fare il test del professor Di Pietro, chiamateci o scriveteci al 349-238-6666. Intanto noi ci prendiamo un momento di respiro. Tiriamo il fiato. Con noi abbiamo il piacere di avere Daniele Belloni di Yoga e Meditation Training. Ciao Daniele, bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. E in primavera abbiamo proprio voglia di fare un respiro che sia un'occasione di purificazione, di rinnovamento, di ricarica? Assolutamente sì, e lo yoga anche in questo caso ci viene in aiuto, attraverso una tecnica di respirazione che è una tecnica, come dicevi tu, di rigenerazione, purificazione, di ricarica su tutti i livelli. Si tratta di una tecnica respiratoria dinamica che prevede inspirazione ed espirazioni forzate. Sono espirazioni ed inspirazioni uguali in forza, uguali in intensità e profondità, e si eseguono attraverso le narici, emettendo un suono che percepiamo nella gola e nel petto. Però, cara Nicoletta, la base di partenza, lo sappiamo bene, è sempre una buona respirazione diaframmatica. L'ombelico? Capo, mobile. Sempre colombe lì in movimento. Rischiamo di ripeterci, ma effettivamente questa è la base di tutto, la base del benessere, la base del sentirsi bene nel proprio corpo, in armonia con la mente, con i flussi del respiro, eccetera. La base anche ovviamente di tecniche di respirazione che sono un po' più complesse, che portano ovviamente benefici, ma che bisogna appunto affrontare con la necessaria consapevolezza, quindi fluido e continuo movimento dell'area ombelicale, come mi stavi appunto ricordando. Espirando quest'area si espande delicatamente, dolcemente, inspirando c'è una leggera, delicata fase di rientro, quindi espirando espansione, no scusami, espirando rientro, inspirando espansione. In buona sostanza, quando si inspira e si prende aria, si espande un po' con l'aria, quando si espira e si riemette aria, si comprime un po' delicatamente la zona dell'ombelico dello stomaco. Dunque, questa tecnica di respirazione che vi propongo oggi si chiama respirazione a mantice bastrica nello yoga. Allora, e dici bene, Daniele, il nome della respirazione. Intanto noi invitiamo gli ascoltatori a fare due cose contemporaneamente, lo yoga non vorrebbe, ma a guardarsi la pelle, soprattutto a guardarsi la pancia, se l'ombelico si muove. 800 24 00 24, restate con noi, perché subito dopo i mercati e il meteo, insieme a Daniele Belloni, invitiamo anche il professor Di Pietro a seguire le sue indicazioni, impariamo una respirazione che ci aiuta proprio in questa stagione. Essere e benessere. Ombelico mobile, in linea con noi Daniele Belloni. Noi abbiamo fatto la nostra parte, Daniele, ci stiamo concentrando sul nostro ombelico che si muove, segno che stiamo respirando correttamente, con una respirazione diaframmatica. Insomma, il respiro non lo teniamo solo in alto, ma lo facciamo scendere nella pancia. Sì, a questo punto possiamo cominciare con la tecnica specifica di bastrica, il mantice. Abbiamo detto prima della pausa, inspirazioni ed espirazioni forzate uguali in forza, intensità e profondità attraverso le narici. Più o meno suona così, se gli ascoltatori alla radio si concentrano sul suono che emetto fra alcuni istanti potranno percepirlo chiaramente. Insomma, si possono eseguire alcuni cicli di 20 ripetizioni ciascuno di questo tipo di esercizio, alternando periodi di pausa tra un ciclo e l'altro, in cui di nuovo si torna, Nicoletta, a respirare armoniosamente in modo diaframmatico ed equilibrato. Se si pratica questa tecnica, si ottengono una serie di benefici che sono straordinari, come dicevamo all'inizio, di ricarica, purificazione, e se vuoi, Nicoletta, te ne elenco qualcuno, solo qualcuno. Dai, mi piace. Si tratta di una tecnica che stimola l'elemento fuoco, generando calore interno e sudorazione. La sudorazione indica proprio l'eliminazione delle impurità attraverso la pelle come organo emuntore, quindi organo di purificazione. La respirazione a mantice stimola l'elasticità del tessuto polmonare e quindi, di nuovo, aumenta la capacità di eliminazione delle impurità e ricarica energetica, ma non finisce qui. Questa pratica incrementa la frequenza cardiaca, quindi ci sentiamo un po' stanchi, un po' depressi, il cambio di stagione ci butta un po' giù, il mantice ci ritira su, aumenta il fuoco digestivo, si digerisce molto meglio e questo è veramente un effetto riprovatissimo, arricchisce la qualità del sangue, tonifica il sistema immunitario aumentando le resistenze a infezioni e contagi. Nella tradizione dello yoga, cara Nicoletta, si afferma che questa pratica curi disturbi epatici e polmonari, purifichi di nuovo l'intero organismo ma a tutti i livelli, anche sottili, e conferisca, perché no, grande gioia. L'unica cosa da tenere presente, oltre alle altre, si effettua a stomaco vuoto, lontano dai pasti e possibilmente ci si rivolge a un insegnante qualificato per ottenere indicazioni e assistenza. Non resta che impararla, allora, Daniele. Intanto, se volete riascoltarvi poi le indicazioni di Daniele Belloni, potete farlo andando a scaricare la puntata sul nostro sito. Grazie, Daniele, per essere stato con noi. Buonissima giornata. Grazie, Nicoletta. Ciao. La pelle, da quel giorno che sei nato ce l'hai. Professor Di Pietro, lei si ricorda? Questa canzone qui è eccezionale, non me la ricordo questa canzone, ma dovete dare il titolo perché la metteremo al prossimo congresso di dermatologia che ci sarà tra due giorni. Bellissimo. Sul lago di Garda, la metteremo come... Allora, noi le passiamo il titolo di questo successo di Celentano e lei ci aggiornerà sulle news. Certo, ma tra l'altro quello che abbiamo appena sentito sono degli esercizi eccezionali, quelli che ci ha illustrato Daniele Belloni. Sì. Mi fa venire in mente un argomento importante di cui discuteremo nel nostro congresso ed è l'importanza del movimento non solo per essere più sani come abbiamo visto ma anche per restare più giovani. E difatti verrà da noi una logopedista brasiliana da San Paolo, dove lavora con la clinica dermatologica, quindi con i dermatologi argentini, brasiliani. Sì. E verrà a parlarci di un metodo che hanno messo a punto con cui riuscire a parlare, a respirare con dei movimenti che siano utili per mantenere la pelle del viso più giovane. Siamo tutti molto curiosi di apprendere, per cui ve ne parlerò sicuramente settimana prossima. Fantastico. Tra un paio di settimane. Allora lo scambio è fatto, noi le diamo Celentano, lei ci dà i consigli per parlare, ridere e respirare e mantenere la pelle del viso giovane. Molto interessante. Sì. Allora è fatta. Intanto non so se l'avete fatto anche voi il test dello scotch. Io l'ho fatto sul braccio, professore. Oh, bene, allora che cosa può una succedere? Una schifezza mi è venuta. Può succedere che lo scotch, quando lo stacchiamo, può rimanere come sbianca, polveroso, perde completamente il potere appiccicaticcio, la colla, no? Di cui è fatta una delle facce dello scotch. Questo perché se la pelle è troppo secca e quindi durante l'inverno la pelle si è seccata molto, con lo scotch vengono perse una grande quantità di squame superficiali che aderiscono alla colla e quindi se proviamo a riattaccare lo scotch non si riattacca più. Allora, noi possiamo avere un indice del grado di secchezza della nostra pelle a seconda di quante volte possiamo riappiccicare lo scotch e in qualche modo vedere che ancora appiccica. Se lo stacchiamo una prima volta e poi non appiccica più del tutto, è un segnale che la pelle è molto secca. Ecco, io sto già rifacendo il test. No, devo dire che si è riappiccicato. E allora vuol dire che medio secca. È ancora un buon grado di idratazione superficiale, quindi la pelle non è poi così secca. E quindi questo è un grado della secchezza cutanea, chiaramente molto casalingo, però insomma, può essere già utile. Il bicchiere, che cosa è successo quando e cosa succede quando appoggiamo il fondo di un bicchiere sulla pelle e attraverso il bicchiere riusciamo a vedere la nostra pelle? Allora, se la pelle con una semplice pressione, con la semplice pressione del bicchiere tende a sbiancare, vuol dire che c'è un eritema di fondo, cioè i vasi capillari durante l'inverno sono diventati più gonfi di sangue, hanno perso un po' di elasticità. E riusciamo a capire quanta elasticità hanno perso a secondo di quanto tempo la pelle, dopo che abbiamo compresso un po' col bicchiere, quindi l'abbiamo sbiancata, sollevando il bicchiere tende a ricolorarsi di rosa. Sì. Più rimane bianca a lungo, più i vasi capillari hanno perso elasticità e anche questo è un altro segnale perché vuol dire che dovremo fare qualcosa per migliorare l'elasticità. E ultimo invece, quando ci svegliamo al mattino, nelle ultime settimane vediamo che gli occhi sono più gonfi oppure restano più a lungo le pieghe sulle guance, quelle del cuscino. In questo caso vuol dire che tendiamo a trattenere edema, cioè tendiamo a trattenere i liquidi nella nostra pelle e questo è un altro segnale che dobbiamo rimediare perché questo può portare ad un invecchiamento precoce o soprattutto a rendere la nostra pelle più fragile e quindi, legandoci a quello che abbiamo detto prima, più facilmente veder comparire delle dermatiti. Essere e benessere. Eccoci qua, siamo tornati insieme, professor Di Pietro. Tre problemi, tre soluzioni, rapidamente. La pelle è troppo secca. La pelle è troppo secca, allora diciamo prima che ci sono delle creme ricche di ceramidi che possono essere molto utili perché ricompattano la pelle in superficie. Dal punto di vista interno, prendere degli alimenti ricchi di omega 3 e di omega 6, quindi il pesce azzurro oppure il salmone. Per quanto riguarda invece la prova col bicchiere, è che sta a indicare se c'è una fragilità dei capillari, una perdita di elasticità della parete dei vasi capillari, e allora i flavonoidi sono di grande aiuto e sono presenti nei frutti di bosco, le more, i mirtilli, ma anche i massaggi possono essere utili, i massaggi del volto o i massaggi in generale possono aiutare a ripristinare una buona circolazione e quindi favorire l'integrità e l'elasticità dei capillari. E per ultimo l'edema. Il rospo al mattino, come si cura? Se al mattino siete rospi? Allora lì vuol dire che stiamo mangiando magari troppo salato. Una delle prime cause è se noi una sera mangiamo troppo salame, troppi salumi oppure delle pietanze troppo salate, al mattino ci svegliamo con gli occhi gonfi. Questo perché il sale fa trattenere i liquidi e quindi questo determina il gonfiore un po' delle guance ma anche delle palpebre, soprattutto quelle inferiori. Quindi diminuiamo la quota di sale, la quantità di sale che introduciamo con gli argomenti e beviamo tanto, quindi almeno un paio di litri di acqua al giorno, questo riuscirà. Ma se io metto un cuscino un pochino, oltre a queste indicazioni preziosissime, certo, non solo per il gonfiore ma per la salute generale, se io tengo la testa un pochino più alta, non dico che dormo seduta, ma insomma questa è una soluzione eccellente, perché durante la notte il sangue dalle gambe torna verso la testa, perché siamo in una situazione orizzontale, e se i vasi capillari sono fragili, si gonfiano troppo, determinano edema e quindi ci svegliamo con gli occhi gonfi se c'è già una predisposizione. In questo caso quindi, se ci accorgiamo negli ultimi periodi che ci succede questo fenomeno, dormire con due cuscini, due perché solo uno la testa assumerebbe una piega, il collo, e quindi darebbe fastidio, poi ci viene la tosi cervicale, due cuscini perché in questo modo solleviamo anche le spalle, oppure mettere sotto la rete, i piedi della rete del letto, mettere due piccoli spessori di legno, sì, in modo da sollevare tutta la rete del letto di un paio di dita, insomma, sì, ecco, pochi centimetri, bastano 1-2 centimetri, e questo aiuta, di molto aiuto. Abbiamo Giovanna che ci chiama dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno, Giovanna, sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccola qua. Complimenti alla trasmissione. Sarò breve. Dottore, io ho un problema, mi è stata diagnosticata la dermatite atopica con un po' di psoriasi. Praticamente sono anni che non faccio più la tintura, però in questo momento ho un forte prurito e mi si taglia proprio in mezzo al seno fino all'attaccatura. Praticamente avendo anche il glaucoma non posso usare il cortisone, uso certo solo l'Elidel, ma molto raramente. E è che mi suda molto, cioè mi lavo al mattino, mi sciacquo, che cosa. Ho questo prurito fortissimo ai lati della pancia, l'ombelico puzza, sulla gamba, dietro le orecchie, i lobi mi si tagliano e non riesco a risolvere questo problema. Però è molto fastidioso in mezzo al seno perché certo continuo a cambiare reggiseni e proprio perché, mi si taglia proprio. Perché, professor Di Pietro, certo, proprio le pieghe e le, certo, dove batte ad esempio il reggiseno sono dei posti, delle zone, sì, della pelle molto delicate. In questo caso colpisce soprattutto appunto le pieghe dove poi si crea caldo umido e questo fa crescere. Che cosa si può fare? Allora in questi casi ci sono, possono esserci delle creme che riescono a reintegrare il film lipidico superficiale. Ricordavo le creme alle ceramidi, creme con la vitamina A che possono aiutare, con la vitamina E anche, possono essere utili. È un problema questo piuttosto difficile da risolvere perché è costituzionale, si nasce predisposti e si è allergici a tutto ciò che ci circonda, infatti si chiama dermatite atopica per questo motivo. Per fortuna andiamo incontro all'estate e la dermatite atopica è una di quelle forme cutanee, di quelle patologie che con una corretta esposizione al sole può avere dei benefici, quindi mi auguro che anche la nostra ascoltatrice rientri in questo gruppo. E poi invitiamo naturalmente le persone che hanno un problema di dermatite, ma non solo, di una pelle particolarmente sensibile, particolare attenzione ai tessuti, quindi scegliere tessuti naturali, lino, cotone. Reggiseni che hanno magari delle di fibra sintetica possono peggiorare questo, o anche delle magliette di fibra sintetica, tutto ciò che non fa traspirare bene la pelle su una cute, delicata, soggetta alle dermatiti, chiaramente è veleno. Insomma, la primavera è arrivata, dobbiamo fare i conti con la primavera, che può essere un'occasione per prepararci ad affrontare poi l'estate, e quindi con un adeguato o anche livello di protezione. A proposito di primavera, qualche settimana fa, anzi circa 10 giorni fa, avevamo lanciato proprio a voi una proposta: scrivere un testo con l'incipit vincolato che aveva proprio a che fare con la primavera. Infatti l'incipit era: la primavera tardava ad arrivare, ma alla radio. La primavera tardava ad arrivare, ma la radio si raccontava di come il desiderio si nutra d'assenza e come questo tempo d'attesa possa trasformarsi in un periodo speciale di riflessione, anziché motivo di lamentela o, peggio, di sofferenza. Io mi sentivo ancora sospesa nei ritmi lenti dell'inverno, e mentre anelavo all'imminente risveglio della natura, sognavo. Davanti alla finestra rincorrevo le gocce di pioggia che scendevano a piccoli sobbalzi lungo i vetri. Mia madre mi chiamò per bere il caffè. La osservavo compiere dei gesti semplici e precisi che mi mettevano il buon umore. Ci sedemmo al tavolo di cucina e ci gustammo quella piccola pausa che pareva un'eternità. Una pausa che conteneva in sé tutta l'essenza della vita. 120 parole con un incipit vincolate che ci ha mandato Elena, e sono state scelte dal dottor Luigi Ballerini, medico psicoanalista freudiano, scrittore ed esperto di scrittura. Buongiorno, dottor Ballerini. Buongiorno, Nicoletta. E è vero che è bellissimo questo testo di Elena. Nei prossimi giorni ne sentiremo altri 4. Perché ha scelto questo? Ma è bellissimo perché parla di attesa che non diventa una lamentela, cioè tutta la riscoperta della quotidianità, addirittura una tazzina di caffè diventa la possibilità di riprendere o continuare il rapporto con la madre. È proprio l'esempio di un modo semplice per parlare di sé e in pochissime parole raccontare chi siamo, cosa desideriamo, i rapporti che abbiamo e le sollecitazioni. No, noi guardiamo fuori che magari è brutto tempo, ma ci accorgiamo che il bel tempo può essere in casa quando rivalorizziamo la realtà che abbiamo. Per cui mi sembra proprio bello, positivo e fresco. Proprio come la stagione che è arrivata, la primavera. Proprio così, tardava ad arrivare quando abbiamo lanciato questa occasione, finalmente. Vede, le abbiamo dato un po' la sveglia e abbiamo anche dato così un suggerimento ai nostri ascoltatori di fermare su un foglio di carta, di scrivere le loro emozioni, un esercizio che naturalmente ripeteremo con l'aiuto del dottor Luigi Ballerini. Grazie, dottor Ballerini. Benissimo, a presto. Ma grazie anche al professor Di Pietro che ci ha osservato, ci ha curato in tutta questa puntata di primavera. È stato un piacere stare con voi. Grazie, professore. Buona giornata a tutti. Buona giornata, buona primavera anche a lei. Grazie, noi ci sentiamo domani. Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. A domani, noi domani con una nuova puntata. Aperto o chiuso, tenete d'occhio la vostra bocca. Radio 24. La passione si sente. Essere e benessere.